America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Come sapete dedico spesso le mie trasmissioni alla filantropia, al corporate social responsibility, a tutto quell'universo di attività che sono cresciute enormemente, devo dire, qui in America e che hanno a che fare con il ruolo sociale, culturale, filantropico, non solo degli individui ma anche delle aziende, che vi posso dire Bank of America, pensate che ha un corporate executive che è responsabile delle Global Cultural Activities, cioè la sua responsabilità è soltanto di portare le attività, si chiama Rena Di Sisto tra l'altro, che è una donna di origini italiane, quindi italo-americana, e porta questo messaggio un po' in tutto il mondo, dove ci sono tutte le attività di Corporate Bank of America. Però noi stiamo cominciando ad andare in avanti, io cerco di sollecitare un pochino reazioni anche da noi, soprattutto sul piano delle riforme di cui abbiamo bisogno. Il governo Renzi ha cominciato a fare qualcosa, ma credo che ci sia ancora molto molto da fare in termini di deduzioni, di destinazione delle donazioni e degli investimenti, perché qua in America il settore cosiddetto del non profit, è un settore industriale da centinaia di miliardi di dollari che occupa decine e decine di migliaia di persone, e considerando, come dire, la matrice culturale del nostro paese, credo che avremo un futuro non male se riuscissimo a cambiare qualche cosa dal punto di vista della nostra predisposizione sia come individui che come aziende. Però ci sono aziende che sono molto attive già in questo. E dunque ci sono delle strategie di comunicazione che poi vengono scelte e seguite da queste aziende. E posso darvi un'anteprima che fra qualche mese, in ottobre, ci sarà l'apertura formale di una mostra dedicata a Burri al Guggenheim Museum qui a New York, sponsorizzata tra l'altro da Lavazza. E ho con me Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell'azienda omonima di Torino, al quale chiedo subito, dico, ma insomma voi avete fatto una scelta di corporate responsibility, perché la cultura, il Guggenheim, portate dei nomi italiani, avete sponsorizzato la mostra del futurismo, quindi guardando fuori dai nostri confini, perché voi operate a livello internazionale, ecco che ci sono dei ritorni poi per il sistema paese. Se non sbaglio siete anche attivi nella rainforest, no? Ecco, ci racconti un po' qual è la vostra strategia. Sì, diciamo sono due ambiti leggermente diversi. Quello culturale è un ambito che chiaramente vuole posizionare il marchio a fianco a istituzioni estremamente prestigiose e a momenti di grande richiamo, che se in più riescono ovviamente a promuovere la creatività e l'arte italiana, ecco, diventano assolutamente straordinari per un'azienda come la nostra, che vuole assolutamente emergere a livello internazionale, vuole essere protagonista all'interno dei principali centri in cui la cultura internazionale si sviluppa e si forma. Per quanto riguarda invece Rainforest, che è stata appunto citata, qui siamo in un altro ambito, siamo nell'ambito invece della responsabilità sociale per quanto riguarda la supply chain, cioè il sourcing, dove l'azienda da tempo collabora con questa importante organizzazione internazionale per accreditare tutta una serie di produttori affinché lavorino con dei metodi di coltivazione che siano sostenibili e quindi diciamo attenti a tutta una serie di problematiche ambientali, sociali, economiche nel rispetto dell'ambiente. La Lavazza fa dei progetti di intervento diretti in alcune aree dove si produce caffè, cerca di far migliorare le caratteristiche generali della produzione, ma poi porta anche questa comunità ad essere certificate, quindi diciamo a raggiungere degli standard che sono obiettivamente misurabili da un certificatore esterno, in questo caso Rainforest. Oppure ci sono delle situazioni in cui l'azienda compra del caffè certificato, quindi ci sono già dei produttori che hanno raggiunto la certificazione anche al di fuori dei nostri progetti, che vendono caffè certificato, cioè prodotto secondo determinati standard, per esempio non so, determinate pratiche agricole che scoraggiano l'utilizzo intensivo di insetticidi, pesticidi, oppure non so, il mantenimento di fasci di protezione per poter conservare la wildlife locale, quindi per esempio non so, la fauna, la flora, la corretta gestione delle acque, aspetti di natura più economica, non so, tipo i diritti dei lavoratori, i salari, aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. I piccoli produttori sono i principali destinatari di queste politiche. Nel caffè il 90% della produzione è in mano a produttori piccolissimi che hanno a disposizione un ettaro e mezzo, quindi è logico che ci troviamo in certi casi in aree dove la precarietà è molto molto forte, e con questi tipi di interventi si cerca di migliorare in maniera notevole la stabilità. Quanto è importante oggi è essere, come dire, cittadini del mondo responsabili, cioè quindi quel senso di responsabilità civica non averlo solo nel nostro paese, ma averlo a livello internazionale. Direi che è decisivo, perché attraverso questo oltretutto si riesce a migliorare ulteriormente anche la performance dell'azienda, cioè non sono mai due cose che vanno in contrapposizione. Oggi essere particolarmente sostenibili e responsabili significa poter portare all'interno della propria azienda un livello di efficienza superiore rispetto al passato, e quindi di arrivare anche sul mercato con dei prodotti decisamente più competitivi e sicuramente più in linea con quelle che sono le aspettative dei consumatori. Ecco, in America parlare di non profit, di corporate social responsibility è normale, in Italia se ne comincia a parlare parecchio, ma non è ancora così normale. Ci sono, credo, anche delle leggi che forse ci impediscono di esplodere come settore del non profit allo stesso modo in cui si lavora negli Stati Uniti. Secondo lei c'è molto da fare per creare, diciamo, il terreno fertile su cui crescere, o il governo Renzi sta già facendo qualcosa? Come vede la situazione? C'è moltissimo da fare, perché ovviamente il problema di base è che tutto è sempre in funzione in Italia a quello che è l'enorme peso del debito pubblico, che richiede di essere finanziato in maniera molto molto pesante. Quindi anche tutte le attività non profit in Italia hanno dei fortissimi limiti, perché lei è in grado di investire nel non profit e quindi di dedurre da un punto di vista fiscale quello che lei sta facendo, arrivando fino a un determinato punto, cioè la soglia è molto bassa. Il problema del debito pubblico è un problema molto grosso, perché chiaramente assorbe moltissime risorse e ne rilascia poche, ed è anche, voglio dire, un problema di impiego efficiente. È chiaro che più risorse si riescono a liberare e meno ovviamente di queste vengono vincolate al debito, più si riesce a creare crescita, no? Crescita che poi significa sostanzialmente sviluppo di tantissime nuove attività. Nel non profit vuol dire comunque creare sicuramente molti più posti di lavoro, vuol dire creare attrazione, vuol dire valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale, vuol dire sostanzialmente svincolare dal controllo pubblico tutta una serie di cose che ormai a livello internazionale vengono interamente gestite a livello privato con una straordinaria salvaguardia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Lavazza, siamo ancora qua insieme ai microfoni, dunque perché non la lancia lei una canzone? Abbiamo parlato di cultura, cosa le viene in mente? Una canzone, diciamo, culturale, tra virgolette. Potremmo pensare forse a qualcosa di Leonard Cohen, Suzanne? Suzanne, di Leonard Cohen, canzone tra l'altro bellissima. Ottima scelta. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!